24 di Giovanni Minoli. Il calcio è un'azienda come tutte le altre, quindi deve coniugare due elementi: il risultato sportivo, ma anche l'aspetto economico, l'equilibrio economico-finanziario. Soprattutto con l'inserimento delle squadre di calcio anche al mercato della borsa, è obbligatorio che vengano gestite. Rispondere a degli azionisti, no? Azionisti. Presentazione sul palco d'onore del Santiago Bernabéu per Gareth Bale di fronte a oltre 30.000 tifosi. Il gallese è un giocatore del Real Madrid. Il prezzo pagato dai Blancos ammonta a oltre 90 milioni. C'è chi parla di 91, chi invece di 100. Di sicuro è la cifra più alta mai versata nella storia del calcio. Paris Saint-Germain due anni fa, prima che arrivassero i sceicchi del Qatar, fatturava 100 milioni, oggi ne fattura 400 e ha dichiarato di voler arrivare presto a 540, scalzando il Real Madrid al vertice di questa classifica. Dottor Righetti, la Deloitte è una delle grandi firme mondiali tra le società di consulenza e di revisione. Ogni anno voi fate un'analisi dettagliata sull'industria del calcio. Per conto di chi? Innanzitutto viene fatta dal nostro ufficio inglese, ovviamente collaboriamo nei vari paesi. Questo devo dire grazie soprattutto all'interesse che suscita il calcio, ovviamente come passione popolare. Dalla vostra analisi qual è lo stato di salute del calcio? Lo stato di salute del calcio europeo è sicuramente molto buono, perché se lei pensa che la crescita media nel periodo 2003-2014 è stata del 5,2, per cui significa che durante la crisi economico-finanziaria possiamo dire che l'industria del calcio è una delle pochissime industrie che ha tirato, che è diciamo che non si è fermata. E questo è il calcio europeo in generale, quello italiano in particolare? Diciamo, ecco, che il calcio italiano ha comunque avuto sempre una crescita anche negli anni di crisi economico-finanziaria, però inferiore a quella inglese e tedesca. Sì. E quindi in questa media sicuramente siamo sull'1-2%. 1-2%. Un'industria che tira, però molte società italiane rischiano il fallimento. Sì, chiaramente adesso parliamo dati medi e ovviamente stiamo parlando, il nostro osservatorio si basa soprattutto sulle leghe principali, quindi sì, la Serie A. Noi sappiamo che la principale fonte di ricavi dei club sono i diritti televisivi, no? Gestiti da Infront. È un problema avere un unico gestore che controlla tutto? Questo succede soprattutto per il calcio italiano. Sì, naturalmente, perché ci interessa. Dove incidono molto di più i diritti televisivi, ed è quello che sosteniamo da tempo, soprattutto prendendo a riferimento la Premier League inglese o soprattutto la Bundesliga, dove sono riusciti a gestire l'industria del calcio. Con quali rapporti? Ecco, parliamo di rapporti. Diciamo, tra le entrate da diritti televisivi in Italia e nel resto d'Europa, qual è il rapporto? Guardi, tanto per darvi idea, la Premier League ha il 48% di incidenza sul totale dei ricavi. E da noi invece? Da noi invece siamo poco più del 60%. Beh, una bella differenza. Quindi questa è già una grande differenza, certo, tra noi e loro. Certo. La Bundesliga più o meno è sul 50%, quindi è una buona ripartizione dei ricavi. Quindi... Ecco, ma le altre fonti alternative di ricavo possibili, che per esempio in Inghilterra e in Germania, come lei dice, arrivano al 60%, al 50%, quali sono soprattutto? E qui arrivano da un pochino di anni addietro, dove sono stati molto bravi inglesi e tedeschi a investire sugli stadi. Quello per è il punto centrale. Certo, gli stadi di proprietà permettono di poter muovere non solo sui biglietti d'ingresso, che ovviamente rendono gli stadi più sicuri e quindi ci sono più famiglie. Certo. Diciamo, lo cambia proprio il modo di usare lo stadio. Sì, perché poi c'è l'affitto degli spazi, la ristorazione. comunicazione piuttosto che anche alcuni, diciamo, stand di sponsor, e quindi c'è un indotto per lo stadio che è molto importante. Quindi, dottor Righetti, sostanzialmente avere un proprio campo oggi è fondamentale per sviluppare il business, se no si resta fermi. Assolutamente sì, cioè, assolutamente lei... sì, e qui in Italia abbiamo il caso della Juventus, dove esatto. Infatti lo vediamo, solo lo scorso anno le entrate da stadio sono state di 41 milioni per la Juventus, più del doppio rispetto a Milan, Napoli, Inter. Senta, e ma quindi... una squadra di calcio, secondo lei, dal punto di vista di un osservatore come un rappresentante della Deloitte, è un buon investimento? Direi che ci vuole tanta tanta passione. Anche tanta fortuna. Se non c'è passione, fortuna, ci vuole anche uno spirito di carità, perché quindi investire in una squadra di calcio, diciamo, non è un grande investimento, ecco. Beh, diciamo, in generale, poi come lei sa, ci sono alcune società che hanno fatto investimenti, che hanno investito molto bene, perché hanno investito anche sul settore giovanile. Certo. Il settore giovanile permette ovviamente ad alcuni club anche di Serie A, lo abbiamo visto, di produrre ricchezza. Soprattutto proiettato sul futuro. Senta, ultima cosa, lei l'avrebbe quotato i club italiani? Ma di sicuro, come hanno fatto gli inglesi, è positivo da un punto di vista concettuale e teorico. Essere aperti alla trasparenza, essere aperti. Ovviamente la borsa, siccome investimento di fondi privati, però ci devono essere fondamentali. Una società, per essere quotata, deve poi guadagnare, deve avere un ritorno dell'investimento. Insomma, lei non mi ha detto se i club italiani li avrebbe quotati o no. No, mi pare di capire. Come dicevo prima, ci vuole molto entusiasmo, carità, passione. Vabbè, in genere molto diplomatico, ma molto chiaro. Investimenti azionari, devo dire, che ambiscono ad altri ritorni. Va bene. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. E allora adesso entriamo dentro la notizia. Mix 24. Dentro la notizia. La nostra domanda di oggi dunque è: la televisione, che ha fatto crescere così tanto il calcio, produce degli effetti collaterali che invece lo può mettere in crisi, non dico proprio uccidere? Può sembrare una domanda radicale, ma in realtà però pone anche altri interrogativi sul futuro di questo sport e dello sport in generale, viste anche le accuse di doping ricorrenti, di cui naturalmente parleremo. Ma intanto Mario, Deloitte ha fatto un quadro molto preciso. Cosa aggiungiamo lì da Milano, dove ti trovi misteriosamente, come sempre, oramai? Buongiorno a tutti, buongiorno a Giovanni. Ciao. Buongiorno. Poi ci dirai cosa vai a fare a Milano un giorno o l'altro. Allora, ma il quadro delineato da Righetti era molto preciso. Io posso aggiungere solo che il calcio deve sicuramente recuperare, oltre alla fase di carità, come diceva Righetti, da parte degli imprenditori, anche un po' di basi industriali. E per esempio, molti sanno, altri meno, che Goldman Sachs si sta muovendo sul terreno italiano per dare una mano ai patron delle squadre, a capire che poi la finanza è importante. Quindi sono Milan, Inter, Roma, hanno preso contatti anche con la Fiorentina mesi fa. Questo significa che la complessità e la crescita dell'industria calcistica sono alte. D'altronde i numeri snocciolati da Deloitte parlano chiaro. Però servono operazioni di rientro dal debito, operazioni di rifinanziamento, ricerca di nuovi ricavi con gli stadi, come dicevate prima. È un'impresa che è un paradosso, perché ha alto tasso di popolarità, però anche ad altissimo rischio. Infatti, sì. Ma tu, Pietrangelo, che vivi nel mondo della poesia, che idea ti sei fatto di questo mondo? Che fatte le debite scremature morali, quando torneranno di moda i gladiatori, nascerà l'industria per i gladiatori. Finora l'idea che mi sono fatto riguardo al calcio, però, è che questa industria forse perde terreno non tanto per colpa della televisione, ma per un altro tema, un altro motivo, che era quello della socialità, dello stare insieme e l'avere svuotato gli stadi. Certo. E il fatto che la gente non abbia più la possibilità di vivere da vicino e quindi di catturare perfino il sudore e la fatica dei propri beniamini. Infatti è proprio sugli stadi che si concentra l'innovazione. Le cose però certo non stanno andando così bene, non nei fatturati ma nell'immagine complessiva del calcio. La governance mondiale è in crisi di identità e di immagine da mesi, e non solo in Italia. Tempesta sulla FIFA, l'organismo che governa il calcio globale. Le autorità svizzere hanno eseguito l'arresto di alcuni tra i suoi massimi dirigenti a Zurigo a seguito di un'indagine per corruzione in corso dal 2011 ma rimasta segreta fino ad oggi. Tra gli indagati c'è anche il re del calcio mondiale Sepp Blatter. La procura svizzera ha anche reso nota l'apertura di un'inchiesta contro ignoti con l'ipotesi di riciclaggio e gestione sleale in relazione all'attribuzione dei mondiali di calcio del 2018 e del 2022 alla Russia e al Qatar rispettivamente. Questo è lo scenario nel quale si muove il calcio mondiale. Proprio ieri Blatter è stato ricoverato nei giorni per stress, per controlli eccetera. Nei giorni scorsi infatti era stato vittima di un malore proprio causato da troppo stress. Ma intanto lo scandalo nel calcio è uno scandalo che viene da molto lontano. Vi ricordate che cosa è successo al mondiale dell'82? Da Antonioni, Rossi, Conti. No! Conti ha sbagliato. Conti solo davanti al portiere, si sono fermati i giocatori del Camerun. Rossi, cross di Rossi, colpo di testa di Graziani, ecco Graziani, è scivolato in cono, sta in vantaggio gli azzurri. Per ottenere la qualificazione il Camerun deve segnare due volte. Udu, Milla, immediatamente il pareggio. Oliviero Bea, scrittore, giornalista, per la tua inchiesta sulla combina al Mondiale dell'82 nella partita Italia-Camerun, hai lasciato Repubblica. Ecco, che cosa ti ha insegnato quella vicenda sul calcio? Intanto la vicenda era tutta vera, per il modo che chi ci ascolta possa sapere. Io mi sono trovato conto ovviamente tutto il sistema mediatico e gli interessi che c'erano dietro al calcio, anche interessi politici, perché quella, come si ricorda, forse dopo tanti anni in cui l'Italia non vinceva niente, quel mondiale vinto significò un rilancio del Made in Italy, certo. Pertini, il presidente della Repubblica, festeggiava. Ecco, ma che cosa ti ha insegnato quella vicenda proprio sul calcio, diciamo? Dunque, mi ha insegnato che a quel punto si poteva manipolare un mondiale di calcio anche abbastanza facilmente, perché non ci fu soltanto l'Italia, ci fu una partita della Germania nel girone con l'Austria per far fuori l'Algeria, e poi confessarono dopo qualche anno che era andata esattamente così. E mi dimostrò una cosa che oggi è attualissima con gli scandali della FIFA, e cioè che dietro c'era il grande vecchio, chiamiamolo così per capirci, del calcio, degli scandali del calcio, erano i padroni del calcio. Ecco, ma oggi quindi, oggi i tempi sono uguali allora? Sono molto peggio, cioè sono uguali ma nel peggio. Perché sono più soldi? Ci sono molti più soldi, il regime delle televisioni, dei diritti televisivi si è allargato a dismisura, il calcio sta colonizzando il pianeta, cioè all'epoca non si parlava certo di Cina, di India, dove sta crescendo. Beh, è lo sport più popolare al mondo, e anche il business più grande sta diventando, no? Sì, ma lo è diventato sempre di più, e siccome era guasto allora, il problema è che è cresciuto il marcio insieme all'affare, diciamo così. Il problema è che non c'è nessuna credibilità in questo momento. Cioè gli anticorpi non ci sono? No, non ci sono anticorpi perché conviene a tutti. C'è una dimensione psicologica collettiva di necessità del calcio. Il calcio è diventato un bisogno pubblico di cui non si può più fare a meno. Non c'è niente che lo sostituisca. È diventato qualcosa di metacalcistico. All'epoca era. Quindi è uno strumento scandalo. Di gestione delle psicologie di massa collettive. Assolutamente, e naturalmente, siccome tutto ciò poi dipende da un potere politico-finanziario, il calcio è collegato con i governi. Basti pensare a quello che è successo recentemente, al problema mondiale in Russia, mondiale in Qatar, Putin, la FIFA, l'FBI che sta indagando. Cioè, è un fatto planetario. Ecco, però intanto in Italia ci sono 12 club di Serie A su 20 che sono in rosso, che hanno i bilanci in rosso. Quindi c'è una scrasi tra questa visione globale del mondo che dipende dal calcio e il calcio che in realtà è in crisi finanziaria. Ma non tanto, nel senso che in realtà se ne fregano. Finché nessuno chiede loro i conti, che il calcio italiano sia per metà in bancarotta è normale. Se uno pensa che tutto sommato la stessa scandalo di Calciopoli, cioè il più grosso degli ultimi anni in Italia, sì, non solo in Italia, in realtà era uno scandalo uscito fuori dall'interno della società Juventus, in cui c'è stata una lotta di potere, in cui Moggi e Giraudo hanno perso e quelle, loro che poi hanno occupato il loro posto e hanno vinto. Moggi e Giraudo in realtà non facevano rosso su niente, avevano la Juventus sempre in attivo, sempre. Quindi non solo, la Juve è l'unica squadra che avendo il suo stadio ha potuto mettersi su una dimensione diversa. Cioè la Juventus in un certo senso, nel bene come nel male, è l'unica società moderna o direi contemporanea all'altezza di quello che sta succedendo nel calcio internazionale con la FIFA e tutto il resto. Ecco, però in questo quadro le nazionali, per esempio, fanno sempre meno pubblico e lasciano sempre più indifferenti. È un effetto della globalizzazione, è destinato a essere così per sempre o che cosa? Il problema vero è quanto regge la credibilità del calcio. Il calcio è un po' wrestling ormai, no? E bisogna vedere, il wrestling regge, il wrestling è pieno di pubblico, è dichiarato, finito. È una fiction. Il calcio non è ancora così, bisogna capire se ci saranno degli anticorpi per cui la gente dirà ma io non voglio vedere la fiction, io voglio vedere, voglio essere certo che le partite sono vere, oppure se tutto sommato il piano inclinato lungo cui sta scivolando il calcio sarà semplicemente un piano inclinato e quindi continuerà il calcio a fare proseguito. Olivero, un'ultima cosa, tu hai nostalgia della cronaca sportiva e del calcio di prima? Se c'è stato un prima, perché mi viene il dubbio è cresciuto tutto, è come dire, dice l'uomo è cattivo adesso di come era mille anni fa aveva l'arma bianca, adesso c'ha le armi nucleari e l'uomo magari è lo stesso, però sono cambiate le armi. Cosa voglio dire? Che è cambiato la dimensione del trucco e della proprio polverizzazione della cosiddetta lealtà sportiva che rende una partita degna di essere vista, giocata e sotto gli occhi di tutti. Quindi da questo punto di vista ho nostalgia di un calcio un pochino meno sporco, mettiamolo così. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Scandali, partite truccate, un mondo del calcio che, come ha detto Oliviero Bea, è diventato o rischia di diventare più una fiction che una realtà. Ma i problemi non finiscono qui, ci sono storie drammatiche di morti legate al calcio. Uno di questi è la storia di Bruno Beatrice, che è un giocatore della Fiorentina prima, del Cesena poi, morto a 38 anni. La figlia Claudia ci racconta il calvario di questo padre morto. Ecco, di che cosa è morto suo padre? Di leucemia linfoblastica acuta. Ecco, è una leucemia, se non so male, durata 2 anni e mezzo. Causata da cosa esattamente? Allora, questa leucemia, la linfoblastica acuta, è una leucemia fulminante. Sì. E sarebbe dovuto lui andarsene nel giro di 24-48 ore. La disgrazia ha voluto che se ne andasse dopo 2 anni e mezzo. Lui aveva 36 anni. Certo. E morire in quelle condizioni a 36 anni non è pensabile, lasciando a casa 2 bimbi di 4 e di 6. Senta, ma voi come fate a avere la certezza che questa leucemia sia stata causata da quei raggi? Da un abuso di raggi Rengen, sicuramente anche dal lavoro certosino fatto da parte dei NAS che hanno svolto un ruolo fondamentale in questo. Ecco, ma la pubalgia, perché lui era affetto da pubalgia, no? Invece che coi raggi, come bisognava curarla? La pubalgia è una semplice infiammazione, da quanto io ne posso sapere, e i grandi luminari che all'epoca visitarono mio babbo, gli atti sono proprio in tribunale, perché c'è ancora un processo in corso, dichiararono, scritto nero su bianco, che questa semplicissima pubalgia poteva essere curata con un riposo piuttosto lungo, con degli impacchi caldumidi, tutto qua, non c'era nient'altro da fare. Ma è perché invece gli facevano questa terapia di raggi? Più che terapia, questo strabuso di raggi perché? È stato fatto perché lui serviva in campo. Ho capito, e voi avete fatto denuncia, no? Naturalmente. Sì, assolutamente, la mia mamma subito dopo la morte del mio babbo ha fatto questa denuncia. Ma nei confronti di chi? Dei soggetti che hanno che hanno deciso questa cura. Sì, sì. E com'è finita? Non è finita perché abbiamo un processo in corso. Ah, ecco, vabbè, no, non ne parliamo del processo in corso. Ecco, lei ha letto l'articolo di Sandro Mazzola, l'intervista di Sandro Mazzola sulla verità di suo fratello Ferruccio? Ho letto. E che cosa ne pensa? Sono due cose completamente diverse. Naturalmente, qua, certo, certo. Sì, però che ci sia qualcosa di strano sotto è inevitabile e noi ci battiamo per quello, per arrivare alla verità. E nel nostro caso per arrivare assolutamente alla giustizia, perché non hanno tolto un calciatore, hanno tolto un padre, una persona di 36 anni, a due bambini, uno di 4 e uno di 6. Per un lavoro, perché fondamentalmente lui stava lavorando. Certo, c'è certo. Chi fa il muratore, c'è chi fa il calciatore. Certo. E lui per il suo lavoro, per colpa di persone che sono state davvero leggere, si è lasciato. Insomma, una fine straziante quella di Bruno Beatrice e Massimiliano Castellani, che è giornalista di Avvenire, è autore di numerose inchieste sulle morti e sulle malattie misteriose che hanno funestato il calcio. Per esempio il suo ultimo lavoro, Il morbo del pallone, edito da Gold Book, è un dossier sul legame che c'è o che ci sarebbe tra il calcio e la SLA. Ecco, Castellani, ci sono risultati certi nella dimostrazione della correlazione tra la SLA e il calcio? I dati certi sono quelli di una maggiore esposizione da parte dei componenti della popolazione calcistica. In una popolazione universale dove si scontrano 2,5 casi, fa da contraltare quella del calcio, in cui invece siamo ben 7-8 volte di più, con addirittura delle punte che potrebbero salire anche di 15-20 persone all'interno della popolazione. Quindi è un'ipotesi fortemente attendibile. Assolutamente sì, confortata appunto da quelli che sono i dati epidemiologici che vengono forniti dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma e il dottor Vanacore. Ecco, ma vale anche per altre malattie, come abbiamo sentito prima nel caso per esempio di Beatrice? Ma fin dai tempi in cui è stata avviata l'inchiesta dal giudice Guariniello sul processo Juventus, che poi è confluita nel processo Juventus e anche in quelle che sono state le inchieste per le morti e le malattie misteriose dei calciatori, c'è addirittura, si parla di un dato doppio rispetto alla media universale per quelle che riguardano i tumori, le leucemie e una serie di patologie che comunque si ricollegano probabilmente all'abuso dei farmaci che è stato fatto in attività. Ecco, ma negli anni tra il 60 e l'80 sembra che sia capitato un po' di tutto nel mondo del calcio dal punto di vista proprio del doping, diciamo, per usare una parola generica. Perché? Perché è subentrata una forma di sperimentazione che era molto in voga soprattutto nei paesi dell'est e che quindi ha coinvolto anche l'Italia. C'è stato a un certo momento una serie di medici, anche un po' improvvisati, spesso erano dei messaggiatori, che con la complicità degli stessi tecnici e con una certa anche, diciamo, superficialità da parte dei calciatori dell'epoca si sono prestati a tutta una serie di quelle che noi oggi chiamiamo medicalizzazione dello sport. All'epoca era semplicemente una sorta di cura ricostituente che però poi si è visto che nel tempo hanno creato degli effetti collaterali molto gravi. Molto gravi. Ecco, Ferruccio Mazzola, il fratello di Sandro, ha scritto quello che capitava a lui nell'Inter di Herrera, ma è stato messo al bando. Adesso, dopo averlo attaccato anche lui, anche il fratello Sandro in qualche modo conferma. Perché secondo te? Perché quella generazione è tutta consapevole, non ha mai parlato per quella che Guariniello aveva già riscontrato all'epoca, 15 anni fa, come l'omertà del calcio, che forse è superiore a quella dei sistemi malavitosi. Esiste una concentrazione di affari importanti in cui finché si fa parte della grande azienda calcio, che è una delle più maggiori industrie del paese, si cerca chiaramente di tenere la bocca chiusa e di non progettare altro fango rispetto a quello che già si vede costantemente e quotidianamente riguardante appunto quello che è il mondo del pallone nazionale. Ecco, ma perché uno come Sandro Mazzola adesso sente bisogno, secondo te, di confermare quello che prima aveva criticato dell'atteggiamento del fratello? Perché quella di Ferruccio Mazzola era una verità che è stata addirittura anche confermata da un processo che gli era stato intentato proprio dallo stesso Sandro nei confronti di Ferruccio, un processo di risarcimento danni che aveva chiesto l'Inter di 1 milione di euro, quando il giudice invece ha stabilito proprio per sentenza che tutte quelle medicalizzazioni, pratiche dopanti e tutta una serie di anfetamine che erano state sottoposte ai calciatori con il famoso caffè di Herrera era la verità sacrosanta degli anni 60. Ecco, ma quali sono le malattie più frequenti, un po' me l'hai detto, dovute al doping, diciamo doping per usare una definizione generica ma precisa? Il calcio. Ma diciamo che i tumori al fegato e soprattutto le leucemie sono state quelle più riscontrate. Poi esiste chiaramente questa fenomenologia che non va assolutamente sottovalutata, che noi abbiamo definito appunto una SLA, il male oscuro del pallone, in questo libro che ho appena pubblicato, in cui c'è un'incidenza che è talmente forte e che tra l'altro andrebbe indagata in maniera anche sulla base di quella che potrebbero essere le morti bianche del calcio, perché queste sono comunque delle patologie che potrebbero. Ma quando pensi a morti bianche, a chi pensi? Beh, diciamo che penso a tutta una serie di calciatori, si calcolano siano circa una cinquantina, e sono stati trovati 21 decessi soltanto in quella indagine che fece Guariniello, che riguardava una popolazione calcistica di 40.000 calciatori. Quindi se in una città di 100.000 abitanti ci sono due casi di SLA e in una popolazione calcistica di 40.000 ne troviamo 21, capisci benissimo che insomma ci siamo di fronte a una situazione abbastanza allarmante. Senti, ma per quello che ne sai, i controlli invece che si effettuano oggi garantiscono di più sull'effetto dell'antidoping, insomma, quindi dei minor rischi per i calciatori? Negli ultimi anni i controlli si sono molto allentati e questo lo dimostra il fatto che non si trovano più dei dopati, dei calciatori positivi all'antidoping. Quindi significa che è stata abbassata la guardia. Ma non può essere solo che invece si allenano molto di più e quindi... Il fatto che si allenano molto di più e si giochi ormai a una media di 48 ore significa che comunque, come hanno testimoniato anche i calciatori, recentemente c'è stata anche la stessa dichiarazione di Beppe Bergomi, che si dice allarmato per quello che può aver preso in carriera. Bergomi non ha smesso 30 anni fa o 40 anni fa come Mazzola. Quindi diciamo che sono dei calciatori anche dell'ultima generazione che sono preoccupati, perché comunque sanno che fare sport professionistico spesso significa fare uno sport che è medicalizzato. Beh, certo, le riflessioni di Castellani sono inquietanti. Pietrangelo, tu già eri lontano dal calcio, cosa ti suggerisce questa puntata? No, io sono comunque vicino a tutti i fenomeni di costume, li osservo attentamente e capisco che nel calcio c'è anche quell'esigenza di individuare e trovare dei modelli, dei beniamini, qualcuno che racconti il sacrificio, in un certo senso anche l'eroismo, ed è un agone continuo. Però ne approfitto per raccontare che c'è anche un altro mondo vicino a noi che con il sacrificio e l'eroismo partecipa del sentimento popolare diffuso, e oggi è il 12° anniversario della strage di Nassiriya. È un sentimento collettivo forte dove l'eroismo e il sacrificio assume un altro racconto. Giusto, molto vero, importante questo ricordo, e cerchiamo di finire con una nota un po' più leggera, con una delle canzoni di Francesco De Gregori, La leva calcistica. Mannino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Mix 24. Tantissimi sms, telefonate, naturalmente tutti mi attaccano perché sanno che sono juventino, ma perché non parla il caso di Andrea Fortunato, perché non si parla del dottor Agricola, naturalmente tutto vero, tutti i problemi che sono stati affrontati anche nei processi. Intanto Giorgio da Padova. Giorgio? Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Complimenti per la trasmissione, sicuramente per tutte le altre trasmissioni vostre. Grazie. In ogni caso, sì. Volevo semplicemente dirvi questo: io sono un appassionato di rugby. Bellissimo sport. Sì. Sono appena stato a Londra, a Cardiff, a vedere due partite degli All Blacks. E se c'è una cosa che mi ha lasciato questo mondiale è il fatto che gli stadi erano completamente pieni. Sì. E lo sport, dovendo essere un veicolo di cultura. Bene, nel calcio non esiste, nel rugby completamente. Assolutamente vero, concordo al 100%. Grazie Pietrangelo. Oggi che canzone ci fai? Sentiamola. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know I once knew a woman who looked like just a hair. E allora? Allora, mi sono fermato oggi a osservare, è stato giusto il tempo del semaforo, un'improvvisa partita a carte tra giocatori in sosta all'incrocio. Ora non so, forse erano dei bari, forse dei romantici. Intorno avevano donne che assomigliavano ad altre donne, senza però che nessuna lasciasse un ricordo. E però, perché? Perché con un rapido movimento del polso è stata fatta sparire la regina e di quella mano di carte è rimasta una dedica, tutta disegnata, quella di Guido Crepax a Valentina. Valentina. Valentina, ti piace Maria Valentina? Ti piaceva? Non lo so, piace? Valentina mi piaceva, è quella a cui si riferisce Pietrangelo, bisogna... È lì a Milano con te forse, sì, non sappiamo, no, cosa fai, forse sei lì, no, per Valentina, quello. Valentina, purtroppo no. No, non per Valentina? No. Per altro? Ah, non ce lo dici, va bene, facci la tua bolla cattiva se ce l'hai. La facevi tu in questo momento la bolla cattiva. Che personaggi. Caro Mario, dimetto, fai guai dappertutto. Sì, ma io mi dimetto, De Luca no. Allora, la storia, secondo me, oggi la storia è veramente incredibile, almeno per me, è il caso De Luca sui giornali, certo. Perché... praticamente siamo alla legge non del presunto innocente, ma del presunto colpevole. Ora, io sulla stampa stamattina ho letto addirittura un pezzo, un commento, l'editoriale, era di Federico Geremica, mi pare, dove si parlava di pregiudizio negativo su De Luca, che è vero, quasi lombrosiano, no? Siamo all'imitazione del comico, che quindi di Crozza, che ne dà anche un giudizio politico alla fine. E però a me hanno insegnato, può darsi che io sia che insomma le prove poi si portano nel processo, mentre in Italia le prove si portano sui giornali, poi il verdetto si vedrà. E a me non interessa tanto se in questo momento se De Luca è innocente o no, mi interessa invece la civiltà del diritto, che io credo sia una cosa importante. E quindi? L'unico articolo oggi che spiega come stanno le cose col giusto equilibrio eccetera è di un magistrato, di Carlo Nordio sul Messaggero. Beh, è grande magistrato. Dice, esatto, che dice che le prove sono degli atti, che gli atti dovrebbero essere segreti e che le notizie sull'inchiesta sono al momento frammentarie e ambigue, con tutti anche i distinguo sul comportamento di De Luca eccetera. Ora, la cosa triste, e la chiudo qua, è che questo lo scriva un magistrato e non lo scrivono i giornalisti. Vabbè, per fortuna almeno un magistrato lo scrive. Intanto io con te, Pietrangelo, vorrei tornare a parlare di una questione che ti sta molto a cuore. Senti qua. Sono anni che ce lo racconti, insomma, presidente, o facciamo sto cazzo de ponte. Femmina a Messina, co ponte mi ha fatto prima, tengo una femmina a casa di sette, co ponte mi ha fatto più in fretta, tengo una femmina che ne canti, co ponte mi ha fatto ogni giorno, tengo una femmina a Milazzo, co ponte ci do... Grazie, grazie. Insomma, adesso torniamo a parlare del ponte di Messina, perché come ha detto bene che con Zalone, lo facciamo, non lo facciamo questo ponte, ancora non si è capito. Fatto sta che l'ultima apertura sull'argomento c'è stata anche da parte del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che qualche giorno fa da Vespa ha detto sì, che si farà, Del Rio ha detto ma no, prima no, poi sì, poi forse, adesso dice sì, dopo aver risolto l'emergenza infrastrutturale della Sicilia. Insomma, Pietrangelo, ci credi a questa apertura di Renzi sull'argomento? No. Qui ci vuole San Tommaso, toccare per credere. Allora, poi c'è da dire che l'argomentazione cade nella banalità, perché questo ponte dovrebbe unire una strada che si chiama Salerno-Reggio Calabria. Io a 52 anni non ho avuto mai il bene di attraversarla, di percorrerla e trovarla sana. Ma non è sana, infatti. E non è stata mai realizzata, mai completata. Dall'altro lato poi cosa c'è? La mia adorata Sicilia, dove su quattro strade tre sono sfasciate, dove l'attuale Palermo-Catania è inginocchiata perché un pilone è caduto. È caduto. Vabbè. Ecco. Quindi il ponte, che da sempre è stato un baluardo di una politica di destra, però sta diventando di sinistra. Beh, è stato sempre cornuto come dilemma, perché appartiene a una retorica consolidata e vecchia, e cioè si dice che il ponte la mafia non lo vuole perché vuole mantenere il business dei traghetti, e poi si dice che la mafia lo vuole perché invece vuole prendersi il business della costruzione. Vabbè, quindi va bene, destra, sinistra, il ponte ogni tanto torna nell'agenda politica, si porta dietro però sempre gli stessi problemi. Sentite. Ci sono due corsie. A dire, come mai stiamo facendo due corsie? Com'è che non te lo domandi? Che ne so, sembrava che si portavano così quest'anno. Che ne so. Quest'anno si porta la doppia corsia. L'anno prossimo la doppia corsia col risvolto, a zampalare. Ma vuoi andare avanti, per cortesia? Questa corsia serve proprio per i disoccupati. I disoccupati vedono la corsia loro dedicata, si incamminano e pian pianino, trotterellando, se ne vanno. Questa corsia di qua invece serve per i turisti. I turisti vengono, scendono in Sicilia, stanno un poco, poi non hanno niente da fare, diventano disoccupati e risalgono dall'altro lato. Ho capito. Capito? È un lavaggio. Turisti disoccupati, disoccupati turisti disoccupati. È un lavaggio, un riciclaggio. Il ponte serve per il riciclaggio. Ecco. Oh. Insomma, Ficarra e Picone. Ecco, Pietrangelo, per fare il ponte, secondo te, ma c'è una soluzione oppure non c'è? Per definizione la Sicilia è un'isola, però una soluzione c'è e io la prendo a prestito da Salvo Ficarra e Valentino Picone. Che faccio? Mi tiro la Calabria. Tanto, in Calabria ci sono tutte cose sott'olio, scivola meglio. Beh, l'abbiamo realizzata con Alessandra Cravetto, questa bolla abbastanza divertente. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Lo hanno definito doping di Stato. Potrebbe diventare uno degli scandali sportivi più grandi di sempre, quello che in queste ore sta coinvolgendo il mondo dell'atletica leggera e in particolare la Russia. La WADA ha chiesto di squalificare a vita 5 atleti, 4 dirigenti e un allenatore, revocare tutte le medaglie vinte alle Olimpiadi di Londra 2012 e sospendere la Federazione Russa di Atletica per 2 anni. Quindi niente giochi di Rio per gli atleti di Mosca. Per alcuni si tratterebbe di doping di Stato, per gli scettici di un'altra tappa trasversale della nuova guerra fredda 2.0 che rimette di fronte, mutatis mutandis, Washington e Mosca. Ma per ora Mosca respinge tutte le accuse. L'accusa di doping di Stato alla Russia di Putin si trasforma di ora in ora in una sfida tra sport e politica che ricorda gli anni della contrapposizione tra il blocco sovietico e quello americano. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla caduta del Muro di Berlino, la politica entra in tutte le competizioni sportive e perfino nelle Olimpiadi. I duellanti, la guerra fredda e lo sport. Qui a Mix24, il giallo della storia nel rapporto eterno tra sport e politica. Dopo il giornale radio. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Mix 24. Salamino. Privatizzazione e poi cessione. Caro Giovanni, più che salamini, i bocconcini. È il boccone più prelibato da strappare alla pur saccheggiata dispensa italiana è l'INPS. Annunciazione di privatizzazione e poi cessione. Uno degli ultimi bocconi pronto a essere ingurgitato dalle voraci fauci inglesi è l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. C'è un progetto in itinere ed è grosso ed è riservato e al quale si dedica un pool di giovani giuristi italiani, e solo così infatti si spiegherebbe l'agitazione e le sortite di Tito Boeri. Il presidente dell'INPS infatti ha avuto delle continue esternazioni su pensioni, riordino, tagli e nuove flessibilità, quelle che insomma una vecchia volpe come Lamberto Dini ha bollato come tesi da sfascia carrozza. Ma se la stramaledetta ipotesi fosse vera, se cioè l'INPS finisse dentro la borsetta di Sua Maestà, e ne verrebbe fuori a cascata la fine delle certezze più elementari, cioè la scomparsa delle garanzie dello Stato sociale. E semmai l'INPS finirà tra le tazze da tè del servizio buono britannico, si avrebbe anche, e questo me lo concedo tutto io nella mia malizia, la risposta sull'enigma chiamato governo Renzi, e cioè messo lì perché? Forse a vendere i gioielli di famiglia? Quella che la cometa Mario Monti non è riuscita a piazzare nel mercato? Insomma, l'Italia altro non è che... Invernizzi Invernizzina, che regala... La mucca da mungere! Povera Italia, qui ci vorrebbe Battiato. Battiato. Senti, beh, è una notiziona questa però che hai dato, eh? Insomma, mi sembra una cosa molto molto importante. Noi avremo qui il presidente dell'INPS fra pochi giorni, quindi potremo... esternerà con noi. No, esternerà con noi, ma mi sembra una cosa pazzesca che cambia lo scenario di quasi tutto. Dunque, adesso intanto col professor Roberto Bernabei commentiamo come al solito le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA, 25 agosto 2015. Una migliore dieta e più esercizi non sono abbastanza per migliorare la capacità cognitiva. Cioè, va bene, professore, gli stili di vita, ma gli stili di vita non bastano? Attenzione, la dieta mediterranea e le diete sane si è dimostrato che hanno una capacità di aggredire anche o di facilitare la capacità cognitiva anche in tarda età. Qua invece sono stati provati i supplementi nutrizionali, gli omega 3 per capirci, e altri analoghi, e l'esercizio fisico. Dopo un follow up di 5 anni i ricercatori non hanno trovato differenze tra i gruppi, quelli che avevano questi omega 3 e l'esercizio fisico e quelli che invece erano sottoposti al placebo. Attenzione, sono stati testati 635 adulti e gli è stato fatto fare un esercizio fisico intorno ai 130 minuti a settimana, per cui alla fine la conclusione è che, signori, i cosiddetti supplementi probabilmente non fanno nulla e l'esercizio fisico ha bisogno di un ulteriore rinforzo, probabilmente devi far di più e devi fare soprattutto un esercizio fisico che sia attentamente sorvegliato, perché i 130 minuti diventano una tempistica non sufficiente. Allora, quando uno ha un esercizio fisico sorvegliato riesce a superare questa soglia e arrivare ai 150-170 minuti che sembrerebbero ritenuti quelli efficaci. Bene, quindi camminiamo per chiudere una canzone scritta da Umberto Bindi e Gino Paoli, Il mio mondo, cantata da Morgan. La mia forza me l'hai data tu. Ogni volta che hai creduto in me, tu mi hai dato.